Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do E buonasera, eccoci qua, eccoci bentornate, ben ritrovate su Nervature. Io sono Addu, questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ormai ci conoscete, ma lo ridiciamo, ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming, ma da cui potete anche trovare tante altre informazioni interessanti, come i podcast delle puntate delle varie trasmissioni, i contatti, come appunto scriverci in diretta, quindi usando il pad che trovate al link direttawombat.vado.li. Anche se oggi io non sarò in diretta, ma comunque ve lo dico e scrivete comunque. E altrimenti, se magari siete in macchina, state tornando a casa o invece state uscendo e avete ancora una radiolina AM, provate a ascoltarci invece sulle frequenze 1359. Tra l'altro, ecco, fateci anche sapere come si sente, se funziona bene oppure no, magari sempre tramite il pad. Quindi oggi, lunedì 2 marzo, un'altra puntata di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, biologia. E oggi vorrei un po', diciamo, riprendere o forse approfondire un pochino alcuni, diciamo, focus, anzi alcuni argomenti che avevo toccato la scorsa volta. E quindi magari ridiciamolo. La scorsa volta tutta la puntata si era, diciamo, aveva girato intorno al tema del diserbo, inteso però in modo un po' critico e un po' anche filosofico, lo ammetto. Magari ci ascoltiamo un primo pezzo e poi, ecco, iniziamo con gli argomenti di quest'oggi. Thank you. Ejimako. Ejimako. Ejimako. Dunque, rieccoci tornate in voce, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Come dicevamo in apertura, oggi continuiamo un po' con alcuni argomenti aperti, diciamo, e non conclusi nella scorsa puntata. Rivedendo un attimino molto molto brevemente quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, come si diceva, girava intorno all'argomento del diserbo, in modo appunto un po' più critico e anche filosofico. Quello un po' a cui, diciamo, eravamo arrivate era che il diserbo si basa sul concetto del levare piante che a noi non piacciono, per invece lasciarne altre che a noi piacciono, che sia per una ragione ornamentale o magari alimentare o comunque funzionale all'umano. E quindi appunto si basa tutto sul concetto di definire quelle che sono le piante che ci piacciono e quelle invece non ci piacciono. Ecco, abbiamo quindi un po' visto una serie di termini, in particolare infestante, proprio la parola infestante e poi la parola pulizia, e come queste forse non vengono, diciamo, usate in modo molto molto adeguato in quest'ambito qui. Ora non ci stiamo a ripetere, chiaramente non entriamo adesso nel focus, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana. Poi abbiamo parlato anche di tutto ciò che levare piante, quindi per esempio lasciare terra nuda, ha come conseguenza, quindi appunto, tutto ciò che porta a livello proprio di squilibri o comunque novità, diciamo, ecosistemiche. E tutto ciò quindi era un attimo per avere un po' un quadro più generale riguardo a appunto cosa succede quando si va a diserbare. Quindi cercare di non vedere tutto dal nostro punto di vista, ovvero io, essere umano, sono qui e sono l'unico essere che ha facoltà di decisione e di azione su il sistema biologico, ecologico che ho davanti, e quindi decido a mia discrezione, totalmente mia, che questa pianta mi fa cagare e la levo. E non solo lei, tutte quelle che ho nel campo, nel giardino, quello che è, o nella regione, insomma, decidiamo di estirparle, di ucciderle. Quindi, invece di avere una visione come questa, molto appunto antropocentrica, tramite un po' i ragionamenti della scorsa volta abbiamo cercato di un pochino cambiare visione anche in funzione del fatto che appunto in realtà noi non siamo gli unici viventi di questa terra e soprattutto per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di altri esseri viventi su questa terra. E ecco quindi che per riproprio percepire, rientrare, no, in questo strano mondo che noi e solo esclusivamente noi abbiamo creato di dicotomia tra piante buone e piante non buone da estirpare. Volevo appunto ritornare in questa prima parte di puntata sul concetto di, diciamo, no, sul concetto, sulla questione appunto che noi stigmatizziamo delle piante come cattive, come brutte, come infestanti, come invasive, aliene anche le chiamiamo. Fatto sta che al di là, no, della parola che usiamo per raggrupparle, ciò che ci portiamo dietro di, come si può dire, di emozione quando pensiamo a queste piante è proprio un'emozione di disgusto, di rifiuto e di conseguenza o in principio, non so cosa viene prima, fatto sta che queste piante le identifichiamo come veramente nocive, diaboliche, come se fossero un capro espiatorio di tanti altri problemi che forse non riguardano proprio quelle piante nello specifico. Ecco, in questo momento allora vorrei fare un piccolo inciso riguardo a ciò che abbiamo appena detto, ovvero il fatto che forse il problema non è quella pianta, cioè non è quella pianta maligna, ma è la condizione che si è creata intorno che a noi risulta sfavorevole. Però chi ha creato quella condizione, ecco, magari a volte le cause siamo di nuovo noi stessi esseri umani. Per fare un esempio molto molto semplice che magari vi è proprio capitato sotto gli occhi, se avete un giardino o anche un campo, un orto, è facile che come infestante abbiate identificato la gramigna. La gramigna, l'abbiamo citata nella scorsa puntata, proprio a fine puntata, un po' come chiusura, ecco, l'abbiamo collegata a un pezzo musicale di chiusura, ma adesso la cito invece per proprio farvi appunto questo esempio pratico, perché è una pianta erbacea, una graminacea, praticamente un'erba, ok? Che compone una delle erbe, insomma, che compongono i nostri prati spontanei qui in Toscana e in Italia, soltanto che ha questa caratteristica di fare degli stoloni, e ovvero che dalle radici partono queste radici laterali, o rami, insomma, laterali, che quindi corrono proprio orizzontalmente sul terreno o appena sotto il terreno, e da lì poi risbucano fuori. Esattamente la stessa cosa succede anche con le canne di fiume, quindi probabilmente un comportamento che avete presente. E quindi, insomma, proprio per questo motivo è una pianta difficile da debellare, perché non è soltanto dove noi vediamo il ciuffetto d'erba, ma le sue radici sono un po' ovunque, e dalle radici ha la capacità, ha la potenzialità di ripartire, perché contengono tutta una serie di gemme che le permettono di ripartire. In più è una pianta che si adatta benissimo ai nostri climi aridi dell'estate, tant'è che adesso in questa stagione invernale o autunnale, come la dovremmo forse meglio chiamare, è gialla, quindi è in dormienza, non è morta, nel senso che poi a primavera o anche già ora sta ripartendo con le temperature alte e un po' di pioggia riparte, però ecco, in inverno va in dormienza, mentre invece adora proprio il caldo e la siccità, tant'è che se volete un prato verde d'estate dovete metterci a gramigna, non c'è altre soluzioni. Quindi ecco, già qui vi fa capire che in realtà, però cavolo, sarà pure stronza, ma delle utilità però le posso ricavare. Eh sì, infatti. Quindi detto questo, l'esempio che vi volevo portare è il fatto che un sacco di volte nei nostri giardini, orti o quello che è, ci ritroviamo super infestati alla gramigna. Proprio a un punto in cui veramente non c'è verso di levarla, nel senso che strappi via, magari zappetti anche un po' la terra volendo, ma strappi via e ti viene via un ventesimo delle radici che in realtà ha quella pianta, e quindi riparte dopo 2 settimane e siamo da punto a capo più o meno. Questa questione avviene sì per tutte le ragioni che abbiamo detto, di rusticità e di potenza, no? Di potenzialità proprio di questa pianta, a mio parere affascinante, ma anche perché abbiamo creato delle condizioni per cui altre piante, tutte le altre piante, semplificando un po', le altre spontanee faticano a venire fuori. Perché? Perché magari diserbiamo in continuazione, perché magari lo facciamo quando la terra è un po' durina, e quindi succede che quando tiriamo strappiamo il sopra e lasciamo le radici di tutte le piante, fatto sta che la gramigna, facendo così, non muore, mentre molte altre piante invece sì. E quindi in realtà forse siamo così tanto infestati dalla gramigna perché noi abbiamo selezionato un ambiente, un sistema, un micro ecosistema dove quella gramigna è regina. Però magari appunto questo è dovuto a delle nostre attività culturali che abbiamo portato, no, in quel luogo. Se magari avessimo lasciato fare così com'era, e anzi leverei il se e direi sicuramente, ci sarebbe stato un equilibrio molto più dinamico e più funzionale fra tante specie diverse, quindi la gramigna non avrebbe preso il sopravvento, ce ne sarebbero state oltre a lei tante altre piante. Ecco, quindi questo era appunto un esempio per vedere messo un po' in pratica le cose che già avevamo iniziato a dire la scorsa volta riguardo al io tutto ciò che faccio nel mio campo, nel mio giardino, ha una conseguenza e quella conseguenza può piacermi oppure no, paradossalmente, perché magari lì per lì non mi rendo conto, ecco, di tutto. Le conseguenze che avrà, e quindi potrebbe in realtà, alcune potrebbero in realtà non piacermi. E questo esempio della gramigna è abbastanza diciamo esemplificativo proprio per i nostri climi. Bene, ci ascoltiamo magari un po' di musica e poi ritorniamo in voce sempre su questi argomenti qui, ma facendo un altro esempio ancora più probabilmente interessante e stimolante. Eccoci ritornate in voce, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre Nervature e mi raccomando, se avete domande, dubbi, curiosità, non esitate a scrivere sul pad, il link è diretto a wombat.vado.li. Io in realtà in questo momento non sono in diretta, ma comunque ciò che scrivete lo leggiamo, lo leggerò e quindi non ci sarà comunque altra occasione per rispondervi. Dunque, ecco, rientrando quindi in voce, vi volevo, dopo la gramigna, fare un altro esempio che è ancora più proprio ignorante e io direi stimolante riguardo a piante che noi, purtroppo umani, abbiamo deciso di identificare come malefiche, come cattive. Prima di dirvi di che pianta si tratta, vi invito proprio a ascoltare ciò che seguirà, perché non sentirete la mia voce, quindi ascoltare ciò che seguirà proprio con un atteggiamento di curiosità e di autocritica. Non forzata, nel senso che nessuno sta additando nessuno, ma a me piace veramente tanto, ecco, per conto mio, leggere, ascoltare e poi però tramite la radio diffondere voci anche molto provocatorie che però ci portano magari a riflettere, ecco, su quelli che sono i nostri atteggiamenti ogni giorno. Quindi in quest'ambito in particolare di piante demonizzate, quello che vi confesso, ecco, l'audio che sentirete a breve, a me mi ha fatto ragionare che effettivamente quando io vedo proprio quella pianta lì, o quando comunque si parla di quella pianta, come può essere della gramigna di cui abbiamo parlato poco fa, il mio cervello molto velocemente va a tutta una serie di richiama tutta una serie di informazioni che io contengo nella mia memoria, nel mio cervello, riguardo a quella pianta, che sono tutte informazioni negative, tutte. Per cui, proprio per questo, ecco, provocatoriamente, appunto, mi piace dire che forse veramente noi umani tendiamo a dare dei giudizi veramente un po' sconsiderati a volte. Ecco, allora non vi lascio più sulle spine, perché a questo punto sarete curiosi, immagino, di sapere di che pianta si tratta. Si tratta del ailanto, Ailanthus altissima, questo è il suo nome scientifico. Ecco, io non vi dico niente di che, no, anzi, scusate, sì, una cosa ve la dico, nel senso, se probabilmente avrete sentito parlare di questa pianta, se magari ora non vi torna in mente di cosa si tratta, è un albero che cresce molto rapidamente nei nostri climi, ma un po' in generale ovunque, con queste foglioline molto grandi e appunto, vabbè, da noi si conosce perché è definita una pianta infestante che sbuca un po' ovunque, che dà fastidio a tutti, che sbuca nei margini delle strade, nei campi agricoli, anche nei giardini. Anche lui, tra l'altro, ha questa capacità, un po' come la gramigna, di ripartire dalle radici, quindi se ce n'è uno davanti a me, ce ne può essere il suo, diciamo, un suo clone, no? Che è ripartito alle sue radici, magari 10 metri più là nel giardino del vicino, e noi magari sappiamo in realtà che è la stessa pianta. Quindi questo è l'ailanto. Ecco, no, per ricordarvi, si riconosce anche bene perché sul fusto lascia le cicatrici fogliari, ovvero dove le foglie sono cadute, che sono super ben visibili. Siccome è una pianta decidua, che quindi d'inverno le foglie non ci sono, ma queste proprio tipo L sul tronco si vedono molto molto bene. Ecco, questa quindi è la pianta in questione, e però non ve ne racconto io in realtà. Vi rimando un estratto di un podcast di Mancuso, Stefano Mancuso, ricercatore dell'Università di Firenze, beh, ormai un po' star della divulgazione scientifica o meno in alcuni casi, comunque di tutto ciò che riguarda piante. E vabbè, mi fa piacere farvi sentire direttamente lui, perché appunto le sue capacità divulgative sono decisamente alte, molto più delle mie, per cui ecco, questo è l'estratto in questione. Ci risentiamo fra poco. Oggi vi racconto la storia dell'albero più detestato. Ogni volta che si parla di alberi, di piante, e si comincia a dire che esistono delle piante infestanti, delle piante invasive, delle erbacee, delle malerbe, mi arrabbio. Mi arrabbio perché ogni pianta è un valore in sé. E anche quelle più odiate, le cosiddette infestanti, sono piante che in realtà sono le più interessanti in assoluto. Fra queste, l'albero, la pianta più odiata in assoluto, è un albero, si chiama ailanto. Ed è proprio dell'ailanto che io vi parlerò, perché l'ailanto è un albero che mette un po' d'accordo tutti quanti, persone che odiano la natura, persone che sono invece molto in relazione e in contatto con la natura, persone che piastrellano i loro giardini e persone invece che non farebbero del male a una mosca nei loro ambienti naturali. Quando si parla di ailanto sono tutti quanti concordi che quest'albero è una maledizione divina e deve essere estirpato. Ma che cos'è questo ailanto? Intanto nel 1943 usciva negli Stati Uniti un romanzo che al tempo fu molto famoso, era stato scritto da Betty Smith e si intitolava Un albero cresce a Brooklyn. Era la storia di una ragazzina che vive la sua infanzia nella miseria di un quartiere molto degradato di New York agli inizi del secolo scorso. Ora, se non avete letto questo libro e non avete neanche visto il film diretto da Elia Kazan, vi può interessare sapere che questo albero, questo famoso albero che cresce a New York, è proprio un ailanto. Al tempo, quindi, nel 1943, l'albero ancora non era un albero maledetto, era ancora conosciuto come l'albero del paradiso. E in effetti questa era la prima definizione di questo albero. Questo albero che cresce a Brooklyn, in questo romanzo, Un albero che cresce a Brooklyn, appunto, è proprio l'esemplificazione stessa della resistenza, della capacità di opporsi a qualunque avversità, compreso il taglio alla base, che era il simbolo proprio di questa generazione, una generazione di migranti tenaci e combattivi che arrivava a Brooklyn e vinceva tutte le avversità e diventava prospero e con un futuro radioso. Provate oggi a guardare che cosa si dice di questo ailanto. Ma prima un passo ancora indietro. Da dove viene questo ailanto? È un albero nostro, perché è molto importante capire la provenienza, capire l'origine di questo albero, perché è proprio dall'origine che deriva anche molto dell'odio che noi proviamo per questa specie. Ailanthus altissima è il nome botanico, è una specie originaria della Cina del Nord. Arriva in Europa più o meno nel 1750, negli Stati Uniti verso la fine del Settecento, ed è appunto conosciuto come l'albero del paradiso. Lo importiamo perché è molto bello. Eppure se ora cominciamo a guardare in internet che cosa si dice di questa pianta, troviamo dei titoli quali «L'albero del paradiso è diventato un inferno», «Eliminare l'ailanto», «Guerra all'ailanto», «Killer dei boschi e dei paesaggi», «Allarme ailanto», «La pianta che spacca tutto», «Verso il baratro», due punti, «Ailanti». Oppure ci sono dei blog dall'impostazione più classica come «Morte all'ailanto» o delle prosaiche guide alla eradicazione dell'ailanto. Non pensiate che sia soltanto il nostro paese a nutrire un odio particolare per l'ailanto. La Svizzera, ad esempio, produce delle magnifiche guide, proprio fatte secondo l'efficienza svizzera, alla resistenza all'invasione dell'ailanto. Negli Stati Uniti esistono dei kit proprio che si possono acquistare per l'eradicazione dell'ailanto e è stato soprannominato simpaticamente Ghetto Plant, cioè era partito come albero del paradiso, in pochi anni è diventato Ghetto Plant. Il furore distruttivo che circonda questa pianta è globale. Ora, quelli che fra di voi hanno dei giardini, si occupano in qualche misura di piante o sono semplicemente amici di qualche appassionato, avranno sicuramente sentito parlare di questo mostro. Per tutti gli altri è bene chiarire l'origine e la ragione di tutto questo rancore verso questa pianta. Il motivo principale è che la pianta non è nostra, non è locale, nient'altro. Ora è vero che le radici possono invadere le fognature e spaccare le fondamenta, è vero che produce molti semi, è vero che alcune parti della pianta sono addirittura velenose e talvolta sono fastidiose, ma sono centinaia le specie che fanno altrettanto, eppure non è che per questo ci sentiamo in dovere di cancellarle dalla faccia della terra. Per l'ailanto il motivo vero, la ragione del risentimento, il motivo imperdonabile è che ruba il posto alle nostre piante. Si diffonde a spese delle delicate piante occidentali. Una volta insediatosi, che sia un degradato quartiere della città oppure delle zone periurbane, nella campagna, l'ailanto si espande irresistibilmente. Lungo i binari della ferrovia, le scarpate autostradali, le pareti dei ponti, le cavalcavie, nelle fessure dei marciapiedi, lungo le recinzioni di confine e in generale in tutti quei luoghi in cui nessun'altra pianta crescerebbe. Questo non toglie nulla all'odio per questo straniero. Inoltre puzza. Non dobbiamo dimenticare la puzza. In linea con la tradizione dell'immigrato maleodorante, anche l'ailanto emette cattivi odori. Durante la fioritura, anzi soprattutto e soltanto durante la fioritura, e per tutto il resto della sua vita è un albero perfettamente profumato, tanto da meritarsi l'appellativo di albero puzzone. Straniero, alto 10 piani, scaccia italiani. È l'invasione dell'albero puzzone. Così titolava informativo e sintetico qualche settimana fa un quotidiano online. Uno degli aspetti più singolari di tutta questa storia riguardante l'intolleranza all'ailanto è che i sostenitori più convinti della purificazione del sacro suolo patrio dall'ailanto non sono dei dazzy skin, neofascisti o simili, bensì persone con una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e della natura. Gente di mentalità aperta e progressista. Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, dei rifugiati, degli animali, della natura, diventano delle belve sanguinarie quando si tratta dell'ailanto. Ieri non ce l'ho fatta più. Sobbillato dalla visione di queste maledette piante, ho tirato fuori sega, falcetto e badile. In tre sono caduti, ma molti altri ne rimangono ancora. Sto parlando dell'ailanto. Una cosa indescrivibile, una maledizione, forse la nemesi dell'umanità. Scrive Alessandro nel blog Ailanto a morte. Gli risponde il seminatore. Senti, lo so che non mi fa onore, ma quando ce vo, ce vo. Alcune volte anch'io, ti confesso, l'ho fatto. Allora, prendi un secchiellino, un pennello e del diserbante marca secca tutto e con cura e odio spennelli le odiate foglie. e ti siedi ad aspettare. Puoi ripetere dopo 15 giorni e farlo nero. Se hai paura che gli insetti vengano contaminati, usa una busta e del nastro adesivo per isolare le foglie dal mondo. In fondo è anche divertente. Quindi abbiamo tutta una serie di blog che sono impegnati sui temi dell'agricoltura biologica e della difesa dell'ambiente, in cui ogni minimo accenno all'uso di prodotti chimici è bandito, che non si fanno scrupolo nel consigliare contro l'ailanto erbicidi, il glifosate, che in qualunque altro contesto per queste stesse persone sono l'incarnazione stessa del male. Per la distruzione delle piante di ailanto consiglio il seguente metodo. Si taglia l'albero in estate. Se ci sono i semi, li raccogli in un sacco della spazzatura e li bruci. Sul tronco tagliato. Cavolo, i miei studenti direbbero davvero fatti curare. A me l'ailanto piace moltissimo, perché come scrisse Doug Larson, un infestante è una pianta che conosce ogni tecnica per sopravvivere, tranne che saper crescere in file. Ne ammiro l'abilità, la sua sovrana indifferenza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla. Tifo per lei e se ho la possibilità l'aiuto. Gioisco quando la vedo spaccare l'asfalto e prosperare nei più irrimediabili contesti urbani. Questa pianta è un vero fuoriclasse, un esempio della capacità degli alberi di adattarsi, della loro organizzazione fatta per resistere ai danneggiamenti e sopravvivere in un ambiente ostile. L'ailanto è il campione di un modello che si è evoluto per 600 milioni di anni per resistere alla predazione animale. È un modello che dovremmo imitare e non combattere, perché comunque in ogni caso perderemmo. This is Brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems. So has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer, fight amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. I hope you did, my friend. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. Ed eccoci qua che torniamo in voce dopo un po' di musica e prima appunto avete sentito appunto Stefano Mancuso che ci diceva un po' la sua riguardo a questa piantaccia che è l'ailanto. Come vi dicevo, come vi avevo avvisato, è molto provocatorio, e però ci piace, va bene così. E, ecco, chiaramente un piccolo due parole ecco su ciò che lui dice riguardo alle piante aliene, non aliene, insomma, quello, il fatto che noi tendenzialmente in Italia o in Europa cerchiamo di fare un po' fronte, contrastare un po' lo spostamento delle piante attraverso i confini per una questione di preservare la nostra biodiversità. È un argomento ampissimo, molto molto molto dibattuto e molto controverso, quindi anche in ambito scientifico, per quanto si possa dire che la scienza non è un'opinione, in realtà ecco, anche in questi casi ci accorgiamo che a volte non è così, perché a partire da appunto nomi comunque autorevoli per quanto criticabili come Mancuso, ma anche un sacco di altri, ecco, non è così semplice dare delle linee guida veramente lungimiranti e veramente appunto intelligenti riguardo alla circolazione appunto di specie non autoctone. In estrema sintesi, la questione è che la biodiversità abbiamo capito essere una delle poche carte vincenti che ancora possiamo provare a giocare prima di autodistruggerci, più o meno. E quindi in Italia, parliamo dell'Italia, nel nostro caso ci sono tantissimi habitat con delle specie vegetali e non solo, anche animali, se ne può parlare nello stesso modo, molto specifica appunto, e quindi tutti i nostri vari habitat, come ogni habitat, si reggono su degli equilibri specifici. Nel momento in cui ci sono delle specie estranee che arrivano, non autoctone, ovviamente questo può alterare quegli equilibri, anzi sicuramente li altera. Poi magari li altera poco, magari li altera invece tanto. E quindi una delle strategie che in ambito accademico vengono reputate le più accreditate sono quelle di non fare arrivare le specie cosiddette aliene all'octone, in realtà si direbbe. E quindi per non farle arrivare, per esempio, si ricorre a una serie di metodi di controllo, per esempio sulle merci, su tutti i trasferimenti, i trasporti di merci e anche di persone da un paese a un altro. Però è ovvio, insomma, che poi le cose ci scappano, ecco, è impossibile gestirle tutte, E infatti quello che succede è che poi si cerca di fare un monitoraggio il più possibile accurato, anche se ancora siamo ben lontani dal monitorarle tutte le specie che si muovono, per riuscire a identificare i casi in cui una certa specie è arrivata da molto poco in un habitat, molto molto poco, e quindi non ha ancora colonizzato tutto, insomma ci sono poche specie contabili, e allora si procede a ucciderle di base. È molto, sembra un po' macabro detto così, diciamo che c'è una buona parte accademica che invece sostiene questo tipo di metodologie, per la questione effettivamente molto logica che è meglio agire prima piuttosto che agire dopo e doverne uccidere molte di più, oppure piuttosto non doverle uccidere noi, ma fare in modo che, per esempio, tutte le nostre acace vengano soppiantate dalle robine, sto facendo un esempio un po' a caso, e che quindi naturalmente, diciamo, non per mano nostra, si estingua una certa specie sul nostro territorio a causa dell'arrivo di una alloctona, appunto, e che quindi, insomma, prima di arrivare a quel punto lì, magari possiamo agire noi. Ecco, quindi questa è una delle metodologie. Questa era giusto perché non si poteva, ecco, non parlare per niente nemmeno di questo, però ecco, non è oggi la sede per sicuramente approfondire il tema. Mettiamo di nuovo un po' di musica, che qui veramente io mi perdo in chiacchiere e in parole, dovrei stare con qualcun altro in regia, ogni tanto mi tira dei pizzicotti calmati, fermati. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi rientriamo in voce. Yeah. Eccoci qui di nuovo, sempre Radio Wombat, sempre Nervature, e ci avviamo a questo punto nella seconda e anche ultima parte di questa puntata e riprendiamo un po' un filone che anche questo avevamo aperto e lasciato proprio così alle intemperie nella scorsa puntata senza minimamente approfondire. Oggi invece ci un pochino, ecco, ci ricaliamo dentro. E quindi sto parlando di sempre piante spontanee, perché da lì partiamo, ormai non le chiamiamo più infestanti, giusto? Quindi le chiamiamo spontanee, e che però, ecco, noi potremmo magari decidere di non, appunto, considerarle brutte e cattive infestanti, ma magari di considerarle per ciò che sono, quindi interessanti, perché tutte le specie vegetali sono interessanti poi di fatto. E quindi possiamo magari decidere, se ci va, di, se abbiamo un giardino, decidere di appunto mantenere una certa pianta, perché quella lì, bah, quella lì a me mi piace, è bella, cioè fa il suo, no? Magari dà un certo volume che in quel momento non riuscivo a ottenere con le piante che avevo, e quella lì proprio soddisfa questa voglia, questa esigenza, e allora perché no, ce la lascio. Ecco, un po' in questo discorso qui, che appunto avevamo già aperto scorsa volta, avevamo anche citato il concetto del giardino in movimento di Gilles Clément. Ora magari ridiciamo un attimo in breve di cosa si tratta, e poi un pochino per approfondire vi volevo andare a leggere un po' qualche estratto di alcuni suoi libri, appunto proprio per, ecco, sentire proprio le sue parole, ecco, per capire meglio di cosa si tratta. Quindi, ecco, Gilles Clément è un paesaggista francese e giardiniere, perché lui stesso ama definirsi non solo paesaggista, ma giardiniere, ovvero quello che prende gli attrezzi in mano e lavora, proprio detta esplicita, e è un, a livello, diciamo, di architettura del paesaggio, è stato, è ancora vivo, una pietra miliare, perché proprio dagli anni, già dagli anni 90, ma tuttora i concetti che ha portato, che ha elaborato, hanno veramente creato un po' una rivoluzione nel mondo dell'architettura e del paesaggio. Tre concetti un po' chiave che lui ha, appunto, potrei dire teorizzato, insomma, non so se è un po' una parolona, ma sono quelle di terzo paesaggio, di giardino in movimento, di cui parliamo un pochino oggi, e di giardino planetario. E cioè, potremmo starne a parlare per altro che mezza puntata, cioè potremmo starne a parlare per 6 mesi di questi argomenti. Oggi magari ci focalizziamo su quello del giardino in movimento, appunto. Beh, come si capisce già dal nome, ecco, mi sembra un nome abbastanza esplicito, si tratta di considerare quello che il campo che abbiamo davanti, il giardino che abbiamo davanti, come qualcosa di vivo, e non solo perché io decido di metterci una pianta e poi a primavera fiorisce, ma perché ha una vita propria, e quindi questo, se ci pensiamo, è ovvio, nel senso che tutte le piante e gli animali e tutte le specie presenti in quel luogo sono tutte vive, quindi in un certo senso è ovvio, ma questo va inteso nel senso in cui noi umani possiamo decidere di apprezzare queste opportunità che il giardino stesso ci dà senza che noi abbiamo fatto di base quasi nulla. E quindi si tratta poi nella pratica di osservare tutto ciò che succede nel giardino e tutte le specie vegetali che, anzi non solo vegetali, che appaiono, che si presentano, osservarle, studiarle, apprezzarle e farci guidare da quelle specie lì. È un argomento molto affascinante, molto ampio, e uno dei motivi è perché, ormai l'avete capito e questo mi preme molto, mi interessa molto, è quello di cambiare un po' prospettiva, quindi non siamo sempre noi umani che agiamo sul mondo e che vediamo tutto il mondo come noi facciamo qualcosa, se non facciamo qualcosa non è successo niente, no? Invece no, le cose succedono anche a prescindere da noi, per fortuna direi. E quindi ecco, ci possiamo effettivamente far guidare dalle piante che abbiamo davanti e da quelle che si presentano e che noi non avevamo previsto. Allora, un po' per non perdermi in chiacchiere, perché è un po' una tendenza, e un po' per stuzzicarvi ancora di più la curiosità, andrei quindi a leggere in questo momento proprio un estratto del libro di Gilles Clément, che si chiama proprio Il giardino in movimento. È un libro del 2011, quindi c'ha qualche anno ormai, ma è totalmente attuale ancora, cioè ci possiamo studiare anche oggi senza problemi e anche domani direi. Quindi vi leggo ecco un po' un estrattino. In un giardino a ordine statico, una digitale che esce dal gruppo cui era destinata diventa indesiderabile e produce disordine. Ma in un giardino a ordine dinamico, una digitale vagabonda traduce una fase dell'evoluzione del luogo. Il disordine consisterebbe, al contrario, nell'interrompere questa evoluzione. Molto spesso l'ordine è associato alla pulizia. È una nozione soggettiva che non ha nessun senso biologico. Dà luogo a comportamenti diversi. In un parco floreale del centro della Francia, un giardiniere tagliava tutto in una volta, fiori appassiti e altri appena sbocciati. Li stipava in un secchio per gettarli. Il proprietario allora se ne accorse e si allarmò. «Ma perché stai tagliando i fiori ancora belli?» signore, mi porta avanti col lavoro. Questo gesto anodino comporta più conseguenze di quanto si possa immaginare. Certo, sopprimendo la causa si sopprime l'effetto, ma sopprimere i fiori appassiti non significa solo togliere sporcizia, per come si dice normalmente, rendere pulito. Significa anche sopprimere i frutti, dunque i semi. Ora, è proprio nei semi che si trova l'essenza del messaggio biologico, quello che genera un ordine dinamico, portatore di giardini sconosciuti. Ecco, questo è veramente interessante come con poche parole riesce a aprire tanti temi, e proprio nelle prime righe che vi ho letto parla quindi di ordine statico e di ordine dinamico, e quindi per estensione di giardino statico e di giardino dinamico, e è proprio appunto la questione che si diceva, qui fa l'esempio della digitale, quindi una pianta erbacea, che appunto si sposta in autonomia, decide di disseminarsi proprio lì, e quindi l'anno dopo la ritroviamo proprio lì, che però non è dove avevamo previsto, dove l'avevamo seminata o piantata noi in origine. Ecco, quindi questo fa già un po' intendere, fa già un po' annusare tutta la questione. E per esempio, quindi cosa può significare farsi guidare dalle piante spontanee che appaiono nel nostro giardino? Per esempio, può significare che se quella digitale, piuttosto che un verbasco, piuttosto che un'euforbia, appare proprio lì da sola, io magari la noto, e quello è chiaramente il primo passaggio, e poi posso decidere di appunto farmi guidare, quindi magari di cambiare il disegno del giardino proprio per non ucciderla, e non solo, valorizzarla, e non solo, farmi suggerire quindi un nuovo disegno, una nuova idea, un qualcosa che può succedere. Quindi siamo ancora, come potete capire, totalmente nell'ambito del il giardino, che è il mio hobby, di me essere umano, cioè, quindi per quanto è interessante, no, che per quanto sia rivoluzionario un modo di pensare come questo, in realtà comunque è molto ancora vicino alle nostre necessità, ecco, di esseri umani, se vogliamo. Quindi sì, rivoluzionario, ma tutto sommato nemmeno così stravolgente da applicare, no? Proprio a casa nostra, nei nostri giardini. Ecco, quindi altri concetti poi che ci lega a questa vivacità, a questo movimento del giardino, è anche le connessioni che si creano tra piante appunto spontanee e anche animali. Quindi, per esempio, una cosa di cui parla molto spesso è che lui ha proprio osservato nella sua tenuta in Francia, nel suo giardino in Francia, è che lui non è l'unico giardiniere del suo giardino, ma altri giardinieri possono essere anche gli animali stessi. E fa un esempio proprio il più lampante, che poi ripete anche tutte le sue conferenze, lo ripete sempre, è quello delle talpe. E quindi le talpe, che spesso per chi ha giardini ma anche orti, vengono veramente odiate perché fanno ste buche, passano sotto le recinzioni, si mangiano roba, e poi appunto fanno buche in continuazione, scombussolano tutto il nostro ordine. In realtà lui, Gilles Clément, ha osservato che grazie al lavoro delle talpe, quindi a questo smuovere del terreno, vengono fuori, proprio lì dove il terreno è stato smosso, delle piante che non vengono fuori da altre parti. E quindi si vede che lì in quel terreno si trovavano dei semi dormienti, erano finiti un po' più sotto, insomma, non avevano trovato le condizioni per svilupparsi, e guarda caso le trovano proprio quando arriva una talpa a smuovere il terreno. Ecco, quindi qui di nuovo vediamo che tutto ciò che succede, che l'abbiamo fatto noi o che l'abbia fatto un animale o qualsiasi altra cosa, ha delle conseguenze, no? E quindi proprio per questo la natura è affascinante, cioè è difficile anche definire un buono e un cattivo, perché magari dal nostro punto di vista la talpa magari è cattiva, ma per quel verbasco che è nato proprio grazie al lavoro della talpa, la talpa è un dio, o comunque è buona, no? E quindi proprio riguardo un po' a questo tema degli eventi non previsti che creano conseguenze, vi leggo un altro passaggino sempre del Giardino in Movimento, in cui dice: appena terminate, le costruzioni dell'uomo entrano in un processo di degrado irreversibile. La loro incapacità di evolvere le condanna, presto o tardi, alla rovina. Quando un'opera è compiuta, è già morta. La natura, al contrario, non termina mai nulla. Si fa carico degli uragani, interpreta le ceneri di un fuoco, inventa un processo di vita sulle basi, ogni volta rinnovate, di uno sconvolgimento. Le piante pioniere colonizzano le lave spente, i massi di frana, le rocce madri che qualche evento brutale ha messo a nudo. Di passaggio attecchiscono per un tempo, a volte molto breve, e creano il substrato che servirà alla crescita di vegetali più esigenti. Spesso le ceneri raffreddate accolgono muschi pirofiti. Paesaggio in miniatura, ordine iniziale di una serie futura nella quale il muschio sarà scomparso. Ecco, quindi qui appunto parla del fatto che anche da eventi non previsti, a volte anche catastrofici, appunto un'eruzione vulcanica magari, si sviluppano piante particolari, cosiddette piante pioniere, quindi le prime che riescono, e le uniche, che riescono a insediarsi in degli ambienti così particolari. Noi spesso li definiamo degradati, no? E questo però che cosa provoca? Cioè, provoca che dopo di loro, loro moriranno, a un certo punto si decomporranno su quella roccia, lava, suolo, quello che è. Quindi si arriverà a creare più sostanza organica, allora i semi che arrivano, no? Trasportati al vento, dagli animali, in quel luogo lì, forse a quel punto riusciranno a germinare. Allora quelli che riescono a germinare di nuovo sviluppano delle nuove piante che poi a un certo punto moriranno, che faranno sostanza organica, che quindi poi inizieranno a fare suolo. Ecco, tutto questo ciclo che si ripete centinaia, migliaia, milioni di volte fino a crearsi degli ambienti, degli habitat diversi che sono a quel punto magari in equilibrio. Quindi questo proprio che abbiamo letto è un micro esempio, no, dell'inizio di una successione ecologica, così si chiama, nelle quali quindi l'arrivo di piante pioniere, spontanee, vagabonde, per fortuna succede, per fortuna arrivano, perché poi in quel luogo lì piano piano finalmente si arriva a ricreare piano piano sempre più biodiversità, sempre più fertilità, e quindi piano piano anche un sistema, no, in equilibrio. Di solito quella che viene identificato come il climax delle successioni ecologiche è la foresta vera, non quella a cui purtroppo siamo abituate da noi, insomma. Sono sistemi forestali molto molto più complessi e articolati che noi non abbiamo, ecco, a portata di mano purtroppo da percepire e da studiare. Quindi questo un po' per farvi capire anche il fatto che io magari ho il mio giardinetto piccolino, e che cosa può significare l'arrivo di una pianta sulla ghiaia che io ho voluto stendere sul mio camminamento dall'ingresso del cancello alla porta di casa. A me, io magari la levo perché effettivamente la ghiaia mi fa comodo, però so che a forza di levare lì rimane solo ghiaia e rimane un terreno sterile. Se invece non levassi, lì cosa succederebbe? Quale sarebbe la conseguenza? Sarebbe che quelle uniche piantine maledette che tutte le volte rigerminano sulla mia ghiaia in realtà sono l'inizio, lo starter di un processo di aumento di fertilità e quindi anche di biodiversità, che a me non fa altro che bene, non farebbe, diciamo, altro che bene a me essere umano, perché come si diceva prima, appunto, ecco, la biodiversità è qualcosa che ci fa veramente veramente tanto comodo. Mi rendo conto che sono proprio un po' filosofeggiamenti estremi, però io credo che osservare il nostro piccolo sia uno dei mezzi, almeno per me, ecco, migliori per ragionare e studiare anche sistemi più complessi. Ecco, ci stiamo dirigendo verso la fine di questa puntata. Vi vorrei leggere altri due piccoli passaggi e poi invece un altro da un altro libro, però, che ecco, fa un po' per rifare, diciamo, un po' il punto. E quindi ecco, da qui ecco, sì, qua dice: per me tutto ciò che può nascere liberamente nel campo costituisce una realtà alla quale credo senza pormi domande. È una constatazione. L'ambiente si è già incaricato di operare la selezione. Non è necessario aggiungere alla pressione naturale delle condizioni fisiche e chimiche del luogo una pressione ideologica, alla quale la natura, che si pensa in tal modo di rispettare, si dovrebbe piegare all'improvviso. Ecco, e poi per leggervi le ultime veramente due righe da questo libro, Il giardino in movimento di Gilles Clément, questa proprio mi sono lasciata la più provocatoria alla fine, ecco, vi leggerei questo. L'eradicazione di una specie invasiva è una constatazione di fallimento. Significa riconoscere che lo stato attuale delle nostre conoscenze non ci consente altra soluzione che quella di ricorrere alla violenza. Io so, tre volte mi chiedo: ma quanto mi sento tirata in causa da queste parole, no? Da queste parole appunto molto provocatorie. Ha tirato in ballo proprio la parola violenza, insomma, una parola forte, chiaramente, e che non so, ecco, se di mio avrei mai associato alla mia azione di sradicare una pianta spontanea. Non so se l'avrei mai definita un'azione violenta, però effettivamente sto uccidendo un essere vivente. Questo è indubbio, ecco, ed è proprio oggettivo. Non sto qui a fare la paladina della vita e della giustizia, non è certo l'obiettivo, ma l'obiettivo, vabbè, se proprio serve definirne uno, diciamo, è la semplicità e l'umiltà, ecco, di dire che forse, appunto, come noi vediamo sempre le cose dal nostro punto di vista umano, forse non è sempre giusto. E ecco, ovviamente ciò che noi facciamo nel mondo è di estrema rilevanza, sia per il resto della terra che per noi esseri umani, tutte le volte che ci uccidiamo a vicenda, purtroppo. E però ecco, dobbiamo comunque essere coscienti che non esistiamo solo noi su questa terra, e anzi il fatto di solito pensarla così è uno dei motivi forse che ci porta a essere così tanto prepotenti fra di noi e fra noi e l'ambiente che ci ospita. Un po' di musica qui è senz'altro doverosa, ci sentiamo un pezzo e poi ritorniamo in voce per i saluti di base. Quindi vi leggo un ultimo pezzettino da un altro libro, però, di Gilles Clément, e poi ci salutiamo, appunto. Oh, Ecco, quello che vi vorrei leggere proprio appunto in conclusione è l'introduzione del libro, che quindi è due paginette scarse, di un altro libro appunto di Gilles Clément, di questo paesaggista, ecco, abbiamo ampiamente citato oggi, e il libro è Elogio delle vagabonde. È un libricino quasi direi tascabile, piccolino. Ah, scusate, ecco il sottotitolo: Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo. Anche qui titolo piuttosto esplicito, ma particolarmente poetico, direi. Quindi, ecco, Gilles Clément ha questo vizio di definire le spontanee come vagabonde e proprio un po' appunto elogiare, no, queste loro capacità di muoversi proprio all'infinito, cioè in modo incontrollabile, no? Dal nostro punto di vista. E quindi ecco, vi leggerò l'introduzione perché è veramente bella. Le piante viaggiano, soprattutto le erbe. Si spostano in silenzio, in balia dei venti. Niente è possibile contro il vento. Se mietessimo le nuvole, resteremmo sorpresi di raccogliere imponderabili semi mischiati di loes, le polveri fertili. Già in cielo si disegnano paesaggi imprevedibili. Il caso organizza i dettagli, per la diffusione delle specie ricorre a ogni possibile vettore. Non c'è nulla che non sia adatto al trasporto, dalle correnti marine alle suole delle scarpe, ma la gran parte del viaggio spetta agli animali. La natura prende in prestito gli uccelli consumatori di bacche, le formiche giardiniere, le docili pecore sovversive, il cui vello racchiude campi e campi di sementi. E poi l'uomo. Animale tormentato, in continuo movimento, libero scambiatore della diversità. L'evoluzione ha il suo tornaconto, la società no. Il minimo progetto di gestione cozza contro il calendario delle previsioni. Come ordinare, gerarchizzare, imporre quando a ogni angolo spuntano possibilità? Come conservare il paesaggio, gestirne il dispendio se si trasforma col passare degli uragani? Quale schema tecnocratico applicare agli straripamenti della natura e alla sua violenza? Al cospetto dei venti e degli uccelli rimane il problema dei divieti. La natura creativa condanna il legislatore a rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti. E se l'assicurassimo contro la vita? Un simile progetto, la sicurezza a qualunque costo, trova alleati inattesi. I radicali dell'ecologia, i difensori della nostalgia. Nulla deve cambiare, ne va del nostro passato, dicono gli uni. Nulla deve cambiare, ne va della diversità, dicono gli altri. Maledetto vagabondaggio! Il discorso va oltre, diventa politico, mette insieme gli animi sulla necessità di sradicare le specie venute da altri luoghi. Cosa diventeremo se gli stranieri occupano le nostre terre? È questione di sopravvivenza. La scienza corre alla riscossa. L'ecologia, ostaggio dei suoi integralisti, serva da argomento. È qui che nasce l'impostura. I calcoli statistici, la levata dei censimenti portano a un genocidio tranquillo, planetario, legale. E al contempo si configura un'impostura di più larga scala. Fa passare per patrimonio il minimo carattere identitario, un sito, un paesaggio, un ecosistema, così da poterne spazzare via ciò che non sta lì a ribadirlo. In nome della diversità, tesoro da preservare per inconfessabili calcoli, ma non c'è forse da guadagnarci qualche soldino, qualche brevetto da registrare? Ecco, in nome della diversità le energie si mobilitano contro l'intollerabile processo dell'evoluzione. Per cominciare ce la prendiamo con gli esseri che con quel luogo non hanno niente a che fare, soprattutto se lì sono felici. Anzitutto eliminare, poi si vedrà. Regolare, registrare, fissare le norme di un paesaggio, le quote di esistenza. Definire nemici, pestilenze o minacce gli esseri che osano valicare questi limiti. Istituire un processo, definire un protocollo d'azione e dichiarare guerra. Questo libro si oppone a un atteggiamento ciecamente conservatore. Vede nella molteplicità degli incontri e nella diversità degli esseri altrettante ricchezze apportate al territorio. Io osservo la vita nella sua dinamica, col suo normale tasso di amoralità. Non giudico, ma prendo le parti di quelle energie suscettibili di inventare situazioni nuove. Probabilmente a scapito del numero. Diversità di configurazioni contro diversità degli esseri. Una cosa non vieta l'altra. L'elogio delle vagabonde si limita al giardino, al pianeta visto come tale. Al giardiniere, passeggero della terra, mediatore privilegiato di matrimoni inattesi, attore diretto e indiretto del vagabondaggio e a sua volta vagabondo. Allora, quindi aggiungere altre parole a queste mi sembrerebbe un po', ecco, un po' irrispettoso e un po' forse superfluo, e quindi preferisco, ecco, lasciarvele così come sono scritte, come le avete sentite. Tante cose, credo, spero, a cui riflettere anche da questa puntata. E ci rivediamo quindi con Nervature settimana prossima, sempre lunedì alle 19 circa, sempre qui su Radio Wombat, le frequenze di Firenze. E che dire, spero appunto che vi abbia creato un po' di curiosità tutte queste parole, tutti questi ragionamenti. Nel frattempo, da qui a lunedì, comunque ci potete scrivere sia tramite la casella di posta che tramite il pad. Trovate tutti i nostri contatti dal sito radiowombat.net. Io vi auguro una buona serata, rimanete connesse però sul nostro ascolto che seguirà un'altra trasmissione a breve, quindi rimanete connesse anche per sentire la nostra musica. E niente, ci risentiamo poi lunedì prossimo, sempre qui su Nervature. Ciao ciao!